alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti, e neppure descriveremo in particolare e per ordine i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo. Sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni troppo monotona e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità dei luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevano più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora erano le impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose, alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile. E talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che nel sentirsi dare quel titolo dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa dei palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichio e il fracasso giulivo delle feste le comunicavano un'ebbrezza e un ardor tale di viver lieto che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte queste risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche il pensiero di dover abbandonare per sempre quei godimenti gliene rendeva amaro e penoso quel piccol saggio, come l'infermo assetato guarda con rabbia e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne. Concorsero, come era da aspettarsi, i 2/3 dei voti segreti che erano richiesti da regolamenti e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora ad entrare più presto che fosse possibile nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà e condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo 12 mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no, più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì, tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana il poter indirizzare e consolare chiunque in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine ricorra ad essa. Se al passato c'è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra dal lume e vigore per metterlo in opera a qualunque costo. Se non c'è, essa dà il modo di far realmente, in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò che è stato intrapreso per leggerezza. Piega l'animo ad abbracciare con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada così fatta che da qualunque labirinto, da qualunque precipizio l'uomo capiti ad essa e vi faccia un passo, può da allora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia e arrivare lietamente a un lieto fine. Con questo mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse divenuta. Ma l'infelice si dibatteva invece sotto il giogo e così ne sentiva più forte il peso e le scosse. Un rammarico incessante della libertà perduta, l'abborrimento dello stato presente, un vagar faticoso dietro a desideri che non sarebbero mai soddisfatti. Tali erano le principali occupazioni dell'animo suo. Rimasticava quell'amaro passato, ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali si trovava lì e disfaceva mille volte inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera. Accusava sé di d'appocaggine, altri di tirannia e di perfidia, e si rodeva, idolatrava insieme e piangeva la sua bellezza. Deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio, invidiava in certi momenti qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza, potesse liberamente godersi nel mondo quei doni. La vista di quelle monache che avevano tenuto di mano a tirarla là dentro le era odiosa, si ricordava l'arti e i raggiri che aveva messi in opera e le pagava con tante sgarbatezze, con tanti dispetti e anche con aperti rinfacciamenti. A quelle conveniva le più volte mandar giù e tacere, perché il principe aveva ben voluto tiranneggiar la figlia quanto era necessario per ispingerla al chiostro, ma ottenuto l'intento non avrebbe così facilmente sofferto che altri pretendesse d'aver ragione contro il suo sangue, e ogni po' di rumore che avessero fatto poteva essere cagione di far loro perdere quella gran protezione o cambiare per avventura il protettore in nemico. Pare che Gertrude avrebbe dovuto sentire una certa propensione per altre suore che non avevano avuto parte in quegli intrighi e che, senza averla desiderata per compagna, l'amavano come tale, e pie, occupate e ilari le mostravano col loro esempio come anche là dentro si potesse non solo vivere ma starci bene. Ma queste pure le erano odiose per un altro verso. La loro aria di pietà e di contentezza le riusciva come un rimprovero della sua inquietudine e della sua condotta bisbetica, e non lasciava sfuggire occasione di deriderle dietro le spalle come pinzocere o di morderle come ipocrite. Forse sarebbe stata meno avversa ad esse se avesse saputo o indovinato che le poche palle nere trovate nel bossolo che decise della sua accettazione c'erano appunto state messe da quelle. Qualche consolazione le pareva talvolta di trovare nel comandare, nell'essere corteggiata in monastero, nel ricevere visite di complimento da persone di fuori, nello spuntare qualche impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamare la signora. Ma quali consolazioni? Il cuore, trovandosene così poco appagato, avrebbe voluto di quando in quando aggiungervi e goder con esse le consolazioni della religione. Ma queste non vengono se non a chi trascura quell'altre, come il naufrago, se vuole afferrare la tavola che può condurlo in salvo sulla riva, deve pure allargare il pugno e abbandonare l'alghe che aveva prese per una rabbia d'istinto. Poco dopo la professione, Gertrude era stata fatta maestra delle educande. Ora pensate come dovevano stare quelle giovinette sotto una tal disciplina. Le sue antiche confidenti erano tutte uscite, ma lei serbava vive tutte le passioni di quel tempo. In un modo o in un altro l'allieve doveva portarne il peso. Quando le veniva in mente che molte di loro erano destinate a vivere in quel mondo dal quale essa era esclusa per sempre, provava contro quelle poverine un astio, un desiderio quasi di vendetta, e le teneva sotto, le bistrattava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebbero goduti un giorno. Chi avesse sentito in quei momenti con che sdegno magistrale le gridava per ogni piccola scappatella, l'avrebbe creduta una donna d'una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti lo stesso orrore per il chiostro, per la regola, per l'ubbidienza, scoppiava in eccessi d'umore tutto opposto. Allora non solo sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma le eccitava. Si mischiava nei loro giochi e li rendeva più sregolati. Entrava a parte dei loro discorsi e li spingeva più in là delle intenzioni con le quali esse gli avevano incominciati. Se qualcheduna diceva una parola sul cicalio della madre badessa, la maestra lo imitava lungamente, ne faceva una scena di commedia. Contraffaceva il volto d'una monaca, l'andatura d'un'altra, rideva allora sgangheratamente, ma eran risa che non la lasciavano più allegra di prima. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo né occasione di far di più, quando la sua disgrazia volle che un'occasione si presentasse. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, con loro sgherri e con l'alleanza di altri scellerati, potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandola lì per ozio, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose. In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel vuoto uggioso dell'animo suo s'era venuta a infondere un'occupazione forte, continua e direi quasi una vita potente. Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dargli forza a sostenere i tormenti. Si videro nello stesso tempo di gran novità in tutta la sua condotta. Divenne tutto a un tratto più regolare, più tranquilla, smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice. Lontane come erano dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta all'antiche magagne. Quell'apparenza però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità e uguaglianza. Ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci. Tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione claustrale, talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e anche in quella bocca. Però ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare a forza di moine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alti e bassi e gli attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là, ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuor di modo e non la finiva più. La conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatele finalmente la pazienza, buttò là una parola, che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato. Da quel momento in poi la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata invano una mattina a suoi uffizi consueti. Si va a vederne la sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce, non risponde. Cerca di qua, cerca di là, gira e rigira. Dalla cima al fondo non c'è in nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto. La qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là. Si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni e principalmente a Meda, di dove era quella conversa. Si scrisse in varie parti. Non se n'ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte meraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi si concluse che doveva essere andata lontano, lontano, e perché scappò, detto a una suora, si è rifugiata in Olanda di sicuro. Si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari, Se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui s'astenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi, viva e reale, piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei, qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce, sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile, che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. La signora moltiplicava le domande intorno alla persecuzione di Don Rodrigo e entrava in certi particolari con una intrepidezza che riuscì e doveva riuscire più che nuova a Lucia, la quale non aveva mai pensato che la curiosità delle monache potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. I giudizi poi che quella frammischiava alle interrogazioni o che lasciava trasparire non erano meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore e domandava se era un mostro da far tanta paura. Pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole e sciocca la ritrosia della giovine, se non avesse avuto per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure s'avanzava domande che facevano stupire e arrossire l'interrogata. Avvedendosi poi d'aver troppo lasciata correre la lingua dietro agli svagamenti del cervello, cercò di correggere e di interpretare in meglio quelle sue ciarle, ma non poté fare che a Lucia non ne rimanesse uno stupore dispiacevole, come un confuso spavento. E appena poté trovarsi sola con la madre, se ne aprì con lei. Ma Agnese, come più esperta, sciolse con poche parole tutti quei dubbi e spiegò tutto il mistero. «Non te ne far maraviglia», disse, «quando avrai conosciuto il mondo, quanto me vedrai, che non son cose da farsene maraviglia. I signori, chi più chi meno, chi per un verso, chi per un altro, han tutti un po' del matto. Conviene lasciarli dire, principalmente quando s'ha bisogno di loro. Far vista ad ascoltarli sul serio, come se dicessero delle cose giuste. Hai sentito come m'ha dato sulla voce, come se avessi detto qualche gran sproposito?» Io non me ne son fatta caso punto, son tutti così. E con tutto ciò, sia ringraziato il cielo che pare che questa signora t'abbia preso a ben volere e voglia proteggerci davvero. Del resto, se camperai, figliuola mia, e se t'accaderà ancora ad avere a che fare con dei signori, ne sentirai. Il desiderio d'obbligare il padre guardiano, la compiacenza di proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare, la protezione impiegata così santamente, una certa inclinazione per Lucia e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente, nel soccorrere e consolare oppressi, aveva realmente disposto la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive. A sua richiesta e a suo riguardo furono alloggiate nel quartiere della fattoressa attigua al chiostro e trattate come se fossero addette al servizio del monastero. La madre e la figlia si rallegravano insieme d'aver trovato così presto un asilo sicuro e onorato. Avrebbero anche avuto molto piacere di rimanervi ignorate da ogni persona. Ma la cosa non era facile in un monastero, tanto più che c'era un uomo troppo premuroso d'aver notizie d'una di loro e nell'animo del quale alla passione e alla picca di prima si era aggiunta anche la stizza d'essere stato prevenuto e deluso. E noi, lasciando le donne nel loro ricovero, torneremo al palazzotto di costui nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione. Ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.